gioco a tempo, dalle tratto io non mi trattengo. Sorrido come in fotografia, per non finire ad invecchiare vendendo nostalgia. Non cerco nuove debolezze, amore giù di lì. La cura non mi fa paura, ma l'obbedienza sì. Lo controllo, respiro stento, questa è una parte di me. La pazienza è un gioco a tempo, dalle tratto io non mi trattengo. Tempo, dale tra.